Storiacce di Raffaella Calandra. Questo è un paese che non ama chi denuncia, soprattutto nel settore dell'impresa. Ma è davvero così anche secondo voi? Davvero l'Italia è un paese che non ama chi denuncia, soprattutto nel mondo delle aziende? Di sicuro denunciare l'andrangheta, vedere sparire clienti e commesse, entrare in un tunnel di debiti e prestiti e poi avere un conto sempre più oneroso di tasse e sanzioni da pagare è il copione ripetuto molte volte dagli imprenditori che testimoniano contro i boss. Lo avete sentito voi stessi, proprio qui a Storiacce. Insomma, chi si espone si ritrova così a far fronte prima alle difficoltà dettate dal contesto, poi a quelle indirettamente provocate dalle leggi. E allora per questo che esulta Mauro Esposito, perché lui invece pare per la prima volta in assoluto, a quanto abbiamo ricostruito, ha avuto uno stop al pagamento delle tasse. Come si fa per i terremoti, le alluvioni e i fatti straordinari che mettono in difficoltà i cittadini? La calamità stavolta si chiama 'ndrangheta e come tale la tratta la Procura di Torino, che concede a questo imprenditore di non dover versare per qualche anno i tributi. Ma perché è così difficile? Da qui parte questa puntata di Storiacce. Chiede permesso il favore che voglio cercare. Mi porto le salute tra i miei locali. Gli indagati sono 191, 148 le misure di custodia cautelare in carcere. Una prima stima fissa il valore complessivo dei beni sequestrati oltre l'asticella di 117 milioni di euro. Era drina distaccata di San Mauro Marchesato. Fu in una tiepida mattina del 2011 che Torino scoprì l'andrangheta, o meglio se ne ricordò, visto che già molti anni prima, e ormai ci sono anche atti giudiziari a provarlo, anche se non in modo definitivo, la stessa malavita organizzata calabrese aveva organizzato e messo in atto addirittura l'omicidio del procuratore capo di Torino, Caccia. Ma poi, dopo un silenzio che allontana la memoria, è stato con l'operazione Minotauro prima e quella San Michele poi che la città sabauda si rese conto di avere anche al suo interno i boss. Ed è in tutto questo che piano piano si rende conto di essere finito mani e piedi anche un architetto di caselle, Mauro Esposito, divenuto progressivamente, senza che forse lui nemmeno davvero lo capisse e di sicuro senza che lo volesse, uno dei principali testimoni del dibattimento, in lotta dunque sia contro i clan e poi, come sentiremo più avanti, contro la burocrazia e le tasse dello Stato. Io ero stato contattato da soci di questa banca intermobiliare di Torino per fare uno sviluppo immobiliare, un progetto. Noi siamo società di ingegneria. Loro ha deciso di appaltare il lavoro ad un'impresa che già da subito a noi non convince. Ad esempio, già solo la visura camerale mostrava che questo signore non aveva redditi, non aveva capitale sociale, non aveva attrezzatura, non aveva nulla. Iniziano a far costruire questa casa a questo soggetto, da subito iniziano dei gravi problemi e nel frattempo questa società non ci pagava. In quel momento, nell'estate 2010, ci presentano un elenco di opere extra che l'impresa gli aveva chiesto, imprese di un valore di circa 2 milioni. Noi risultano assolutamente sproporzionate rispetto all'importo globale dei lavori, diciamo guardate che non sono sicuramente da pagare, fateci fare una verifica. In quel momento l'impresario, tal Mirante Nicola, mi chiama dicendo che in realtà quella cifra io la dovevo approvarla perché avrei avuto anche dei vantaggi economici personali. Io spiego a Mirante che queste cose noi non le facciamo e non siamo interessati in nessun modo, al che lui comincia a dirmi: forse non ti è chiaro chi c'è dietro di me, ti conviene approvarla o se no devi andartene. Ci faccia capire, Esposito, in sostanza a voi veniva chiesto di fare qualcosa di non lineare da un punto di vista finanziario. Professionale. Nel concreto che cosa vi veniva chiesto di fare? Autorizzare 2 milioni di euro di maggiori opere fatte nel cantiere, maggiori opere che non esistevano. Cioè vi chiedevano appunto di certificare che ci fossero altri 2 milioni di spese in più. A questo punto voi non ci state a questa richiesta. Succede che l'impresario mi minaccia, comincia a dire: tu te ne devi andare da questo cantiere, conosciamo tua moglie, sappiamo che tua moglie è una miliardaria, che peraltro non è vero ovviamente. Io avverto la banca, spiego che questa cosa è assolutamente inaccettabile. Tra l'altro io spiego alla banca: Cioè, io sto tutelando voi, quei 2 milioni li sborsate voi, cioè sono soldi che non dovete dare a questo soggetto, ve li sta rubando. In realtà io trascuravo tutto quello che c'era dietro. Il cantiere si conclude con 8 milioni di varianti o 9 milioni di varianti approvate poi dal mio successore. In quel momento comunque io vengo minacciato duramente, finché c'è una riunione dove mi viene proprio detto: o te ne vai o ti dimetti oppure te ne succederanno di tutti i colori. Io a quel punto sono costretto a dimettermi dall'incarico di direttore dei lavori di quel cantiere e promuovo una causa civile. Adesso poi comincia un'altra fase, diciamo, della sua vita e anche un'altra fase di problemi però. Ma quando la minacciavano, in qualche modo gli avevano fatto capire chi c'era dietro di loro, che tipo di minaccia si trattava? Nel senso che loro lo davano ad intendere, che non era lui che minacciava, parlava di giù, nel senso giù, l'ho inteso, nella parte sud dell'Italia, tu non sai chi c'è dietro di noi, fai molta attenzione a tutto quello che fai da oggi in poi. Io mi sono spaventato molto, anche perché hanno cominciato a parlare di mia moglie, dei figli. Quando lei si è rivolto all'autorità giudiziaria, in che modo è diventato uno dei testimoni chiave del processo San Michele? Intanto subito ho denunciato i fatti, facendo una lettera al capo dell'ufficio tecnico e ai vigili urbani, all'ARPA, all'ASL del comune di Rivoli vicino a Torino, dicendo che io mi dimettevo perché non c'erano più le condizioni di sicurezza ed era molto pericoloso. Purtroppo però il capo dell'ufficio tecnico di quel comune, quando riceve questa lettera, la nasconde, tant'è che questo ingegner Agnolin si scopre dalle intercettazioni che avverte subito loro dicendo: fate attenzione perché l'architetto Esposito è venuto in comune a raccontare che voi siete dei mafiosi. Qualche mese dopo, appena scatta l'operazione Minotauri, siamo diciamo a metà del 2011, vado da Eros a spiegare cosa mi era successo nel frattempo. In realtà Eros già li sapevano, erano già sulle piste di queste persone. Ma poi, oltre agli ostacoli dovuti al contesto, all'isolamento, alle commesse saltate, alle aziende in crisi, a quella terra bruciata che spesso si crea intorno a chi denuncia, si profila all'orizzonte di Esposito un nuovo e grande ostacolo, a non volerlo chiamare direttamente nemico. Un ostacolo non meno difficile da superare, ossia l'Agenzia delle Entrate, che vuol dire tasse e sanzioni sempre più pesanti col passare degli anni e con l'aumento del ritardo. Io ho ottenuto i benefici della legge 44-99 come testimone di giustizia, in realtà non ho lo status ancora di testimone di giustizia. Cioè, da una parte lei ha avuto anche economicamente un riconoscimento con uno status di testimone di giustizia, piccolissimo, quanto vuol dire? 47.313. Lei tenga presente che questa vicenda mi ha fatto perdere un'azienda che io avevo in Oman con 12 milioni di contratti di progettazione e ho speso più di 400.000 euro in causa, avanzavo da questi soggetti 400.000 euro, quindi puoi immaginare i danni che ho ricevuto, però è un segnale, i 47.313 li ho avvertiti più come un buon segnale che lo Stato mi è stato vicino. Ecco, sì, le è stato vicino da questo punto di vista, però a quello lei poi ha avuto, la sua è una storia che ha avuto per certi versi un lieto fine, perché in maniera anche un po' sperimentale la Procura di Torino ha accolto la sua istanza e ha stabilito lo stop a tasse, proprio perché lei aveva collaborato con le inchieste contro la malavita organizzata. Ma che cosa le stava succedendo con l'Agenzia delle Entrate? Cosa mi stava succedendo, cosa non mi è ancora finito di succedere? Perché nel frattempo questi soggetti, come le dicevo, che mi ha detto noi ti rovineremo, si oppongono al decreto ingiuntivo dicendo che io ho fatto danni per 2 milioni. Viene nominata una CTU e la CTU dimostra che io danni ne ho fatti solo per 7.480 euro su 10 milioni di lavori. Però il giudice di Torino, in modo clamoroso, mi condanna a restituire i 400 o i 500 che avevo già incassato, perché ritiene che esista ancora in vigore una legge di Mussolini del 1939 secondo la quale le società di ingegneria come la mia sono illegali in Italia, esercitano abusivamente la professione quando lavorano per i privati. Mai successo prima, perché siamo 300.000 in Italia con 6.000 aziende, quindi io vengo condannato a favore di questi delinquenti. In quel momento io mi trovo senza aver incassato i soldi, aver speso soldi in processo, aver perso un'azienda in Oman, vado in difficoltà finanziaria, quindi chiedo una rateizzazione delle tasse e dei contributi previdenziali. Ovviamente mi viene concessa con degli interessi altissimi, più del 40%, solo che questa vicenda mi manda sempre più in difficoltà. Io nel frattempo devo licenziare delle persone, ovviamente quelli dell'azienda estera, devo licenziare persone in Italia, devo portare tutte le persone che avevo a part time per poter far fronte a tutti questi maggiori oneri di tasse che mi stanno venendo contro. A tutte le difficoltà che l'aver collaborato in un processo le aveva procurato, le stava procurando. Il grave succede a lui, quando io mi accorgo, però ovviamente il primo luglio, quando vengono arrestate tutte queste persone e io riesco un po' a riprendere la mia vita, perché nel frattempo vengo curato con psicofarmaci, insomma non sto a raccontarvi che cosa si vive in una situazione del genere, i carabinieri che ti stanno dietro in continuazione, interrogatori continui. Io a quel punto mi presento all'Agenzia delle Entrate e da Inarcassa a dire: a questo punto però avrei bisogno che mi toglieste more ed interessi. E devo dire che lì ho trovato in quel momento una porta chiusa, nel senso che il mio caso viene visto come un caso di un qualsiasi cittadino, peraltro neanche moroso, anzi uno dei problemi che mi riscontro dice: ma lei ha sempre pagato, quindi che cosa vuole? Lei non è un'azienda in crisi, lei sta sempre pagando. Una porta che solo dopo si sarebbe riaperta per questo imprenditore, dando uno spiraglio forse anche ad altri nella sua stessa situazione, ad altri imprenditori, cioè, che hanno avuto il coraggio di denunciare, ma che poi hanno dovuto far fronte alle difficoltà sia del contesto e anche appunto della burocrazia. E da qui ripartiamo nella seconda parte di Storiacce. Scegli Pantera col TH, scegli l'IRT di Infracom Italia per competere nel mondo. Vi presenta... Storiacce. Vuol dire che qualcuno pensa a te. Cioè, le sanzioni e gli interessi, mi scusi, sono una punizione. Corretto o sbagliato che sia, uno può non pagare le tasse perché ha avuto delle difficoltà o non pagarle per scelta, ma comunque vada, è una punizione che è giusto pagare. Ma nel mio caso, dove è accertato, è acclarato che io ho avuto una minaccia, sono stato sotto pressione dall'Andrangheta, mi hanno sottratto risorse, mi hanno sottratto tutto, li ho denunciati, mi trovo in un processo testimone, questa carenza di liquidità non può tradursi però in un danno, in una punizione per me. Anche se le difficoltà sono tutt'altro che finite, ora esulta Mauro Esposito, ora che la Procura di Torino gli permette di non pagare per qualche anno tasse e sanzioni, visto che la sua condizione attuale, la sua impossibilità, cioè di rispettare tutte le scadenze fiscali, è dovuta alla sua scelta di rifiutare le imposizioni dell'Andrangheta e quindi denunciare. Una strada, come più volte abbiamo raccontato proprio qui a Storiacce, molto in salita, una strada irta di difficoltà, ma chiaramente una strada anche da incentivare. Se si vuole davvero provare ad invertire la tendenza e aumentare il numero di imprenditori che collaborano nelle inchieste contro i boss, un numero a dire il vero estremamente esiguo ancora, anche a nord. Ed è per questo che la storia di Esposito, architetto divenuto testimone chiave del processo San Michele, uno dei principali a Torino contro l'Andrangheta, è diventata per molti versi un esempio. Io pago il passato e ogni anno non riesco a pagare le tasse dell'anno per far fronte ai debiti, diciamo, degli anni precedenti, comprensivi di interessi e more, non pago quelli di quell'anno che mi verranno imputati gli anni successivi. Io ho chiesto a quel punto: sarà possibile annullarmi interessi e more? Quando lei si è trovata in questa situazione, la Procura di Torino che cosa ha stabilito per lei? Ha disposto che intanto venissero sospesi le tasse per i prossimi 3 anni, fino al 2019, cioè tutti i debiti contratti a causa dell'estorsione subita dovevano essere sospesi. E poi dice però che non vengano, diciamo, addebitate a Mauro Esposito come persona fisica e alla sua società interessi maturati e maturandi a far data dal 2011 fino all'ottobre del 2019. Quindi ora, impone che lei non debba pagare le tasse né gli interessi per quanti anni? Sì, per 3 anni, però per quanto riguarda gli interessi e le sanzioni dispone che non mi vengano, diciamo, assegnate a partire dal 2011 fino al 2019, quindi per 8 anni. Noi riteniamo che il provvedimento della Procura sia stato, cioè, veramente esemplare. Io devo tutto. Non ci sono molti precedenti. Penso che sia quasi unico. Ci faccia capire, per un imprenditore che denuncia l'Andrangheta, quanto sia importante avere questo segnale da parte dello Stato in termini di sospensione delle tasse. È fondamentale, è tutto, se no non esci più. È fondamentale. Senza questo provvedimento non avrei avuto neanche una possibilità di discussione con l'Agenzia delle Entrate. Non posso dire la stessa cosa di Inarcassa, purtroppo. Con Inarcassa sono stato addirittura mortificato. Perché? Al di là delle pacche sulle spalle, questo signore ha mortificato la mia posizione dicendo: beh, lei in fondo questi soldi li ha incassati, li deve versare. Insomma, sì, ma quando io incasso i soldi, ma se devo pagare gli stipendi, devo pagare i miei interessi e non riesco fisicamente a versarveli e non li ho usati per andare a comprarmi un'automobile. Non ha voluto sentire nessun tipo di ragione e, ripeto, mi ha trattato come se fossi un delinquente. Questo mi spiace molto. Sì, da un punto di vista concreto lo si intuisce, cioè la sospensione delle tasse diventa un po' di ossigeno, diciamo, per potersi rimettere in pista con la propria azienda. Da un punto di vista anche simbolico, per un imprenditore significa sentirsi, ma sì, sentirsi parte dello Stato. Vuol dire che qualcuno pensa a te. Le sanzioni e gli interessi, mi scusi, sono una punizione. Si è acclarato che io sono stato sotto pressione dall'Andrangheta. Non può tradursi però in un danno, in una punizione per me. Io questo che non ho mai accettato. Ed è questo che alla fine la Procura di Torino ha accolto, ha riconosciuto le conseguenze a cui va incontro chi denuncia e per questo ha bloccato tasse e sanzioni per qualche anno. E poi in un altro filone ha pure chiesto una condanna pesante, 11 anni e 4 mesi, a chi di fatto l'ha estromesso dai cantieri e dai suoi lavori. La storia di Esposito è stata seguita da vicino dalla Commissione Antimafia e dal senatore Stefano Esposito del PD, non parente dell'imprenditore, è bene chiarirlo, che sta cercando di capire come rendere questo non più un caso isolato. Siamo un paese in guerra con la criminalità organizzata. Quando andiamo a vedere le singole situazioni di chi questa scelta l'ha fatta, ci rendiamo conto che più circostanze si verificano, problemi, intralci, difficoltà. Lei mi deve spiegare perché un imprenditore che vede quello che è successo a Mauro Esposito, ma ne potrei citare altri casi, dovrebbe decidere di denunciare invece di farsi fatti propri. Allora, di fronte a situazioni come queste, certificate dalla magistratura, si devono congelare il pagamento di tasse e contributi. Quindi, a partire da questa vicenda, un caso pilota, quella che è, mi sembra di capire, la vostra idea è quella di far sì che in qualche modo possa essere introdotta la possibilità per gli imprenditori di vedersi riconoscere uno stop ai pagamenti delle tasse e dei contributi nel caso collaborino a importanti processi come quelli contro le infiltrazioni mafiose. Il senso è questo: tenga conto che esiste già una norma che in qualche modo può essere applicata dai pubblici ministeri, però tenga conto che è un meccanismo molto molto macchinoso. Noi quando ci troviamo di fronte a una persona che denuncia la criminalità organizzata e le conseguenze possono essere serie anche dal punto di vista della sicurezza, ma anche di un certo isolamento sociale. Questo è un paese che non ama chi denuncia, soprattutto nel settore dell'impresa. Questo è un aspetto che tanti imprenditori che sono diventati collaboratori o testimoni di giustizia hanno raccontato, e molti lo hanno fatto anche da questi microfoni a Storiacce, cioè che nel momento in cui ci si espone ci si ritrova da una parte isolati rispetto al contesto sociale, dall'altra parte maggiormente ancora di più tartassati. Quali potranno essere le tappe successive di questa idea? Ne ho parlato in Commissione Antimafia, adesso stiamo lavorando con di capire se intervenire sulla normativa già esistente per renderla più fluida, più rapida, o se invece dobbiamo lavorare a un provvedimento legislativo ex novo. Le tasse, si sa, sono un problema per tutti e lo erano già anche nell'antichità. Linea allora, come sempre a questo punto, alle nostre mitiche storiacce e a Giorgio Ioranò, professore all'Università di Trento e autore di saggi sulla mitologia classica. Mitiche storiacce. Per la democrazia ateniese un principio era irrinunciabile: più sei ricco e più devi pagare. Al tempo di Pericle, chi aveva soldi doveva metterli a disposizione della comunità con un sistema di tassazione forzata che andava sotto il nome di liturgie. Il costo delle triremi con cui gli ateniesi imperversavano sui mari, per esempio, era tutto a carico di privati benestanti. Ma anche i capolavori del teatro antico, le tragedie di Sofocle, le commedie di Aristofane, sono nati perché la comunità imponeva al ricco di pagare tutte le spese per l'allestimento di uno spettacolo, i costumi, le scene, l'onorario degli attori e via dicendo. Il popolo, insomma, voleva divertirsi e chiedeva ai ricchi di tassarsi per pagare anche i suoi divertimenti. Qualche ricco lo faceva volentieri. Pericle stesso finanziò nel 472 a.C. la messa in scena dei persiani di Eschilo e sicuramente lo fece per il prestigio e per la popolarità che ne ricavava. ma anche allora, come oggi, c'era chi cercava con qualsiasi mezzo di evadere il fisco. Alcuni intestavano i propri beni a un prestanome o cercavano cavilli legali per farsi esentare dai tributi. Abbiamo molte testimonianze di cause giudiziarie nate da problemi di questo tipo. Il problema era che poi a giudicare erano i tribunali popolari e il ricco in genere ne usciva male. Ecco cos'è la democrazia ateniese, lamentavano gli aristocratici come Crizia o Senofonte. Una forma di tirannia, la dittatura della maggioranza sulla minoranza, cioè dei poveri sui ricchi che vanno tassati. E secondo voi lo stop alle tasse potrebbe far aumentare il numero degli imprenditori che denunciano i boss? La convenienza è una delle strade considerata da sempre più efficace dai magistrati. Fateci sapere cosa ne pensate scrivendoci sulla pagina Facebook di Storiacce oppure su Twitter all'account Raf Calandra. Per riascoltare questa come tutte le altre puntate il sito è radio24.it.